Il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. È l'erede del grande Harry Houdini, l'illusionista di fine Ottocento, celebre per le sue fughe impossibili tra catene, nodi, sott'acqua. Viene considerato il più grande illusionista del millennio. Nel corso della sua carriera ha fatto sparire la Statua della Libertà, però anche il vagone ristorante dell'Oriente Express, ha volato sul Grand Canyon, è scappato dalla prigione di Alcatraz, ha fatto lievitare una Ferrari, ma soprattutto è stato fidanzato con Claudia Schiffer. Oggi parliamo di David Copperfield. David Seth Kotkin nasce a Mochen nel New Jersey il 16 settembre 1956. Il papà è commerciante, la madre è impiegata in una società di assicurazioni e lui è un ragazzo, un bambino inizialmente, timido, molto legato alla famiglia, insicuro, con una piccola passione che diventerà la sua vita, la magia. Trucchi, giochi di prestigio, illusioni che lo rendono popolare tra gli amici a scuola sono uno strumento perfetto per vincere le sue paure. Questo bambino, David, è portato, tanto che inizia a esibirsi in piccoli spettacoli per i quali si fa anche pagare qualche dollaro. Come tutti i maghi che si rispettino, si sceglie un nome d'arte, lo racconta lui stesso a Ross King durante una delle tante interviste TV della sua lunga carriera. I did birthday parties. I was Divino, the boy magician. È stato grande. Lavoravo nelle feste di compleanno con il nome di Divino, il ragazzo magico. Restavo per tutta la durata delle feste chiedendo pochissimi soldi, arrivando solo negli ultimi tempi ad alzare il mio cachet a $6. Quando ero ancora un bambino e andavo a scuola, ho fatto anche sparire i miei insegnanti ed è stata una grande emozione per tutti i bambini. Li ho anche riportati indietro, faceva parte dell'accordo, ma mi sono comunque fatto un sacco di amici. Il padre di David lo ricorda come un bambino solitario, un gran sognatore, e lui dice: ero un bambino solo anche perché ero figlio unico, io lo posso capire, ero solo come sono tutti i figli unici, avevo imparato a fare parlare un mio burattino come fanno i ventriloqui. E il piccolo David inizia facendo levitare i pezzi di legno, facendo parlare il suo pupazzo. Presto però amplia il suo repertorio e Davino the Boy Magician conquista la sua piccola popolarità, tanto che a soli 12 anni entra a far parte della Society of American Magicians. È il membro più giovane mai ammesso, quindi è già un bambino prodigio e ha le idee molto chiare sul suo futuro. Quella per la magia non è una passione passeggera come può capitare a 12 anni, perché lui si fa notare, conoscere, arriva a 16 anni ed è professore a contratto presso la New York University, dove insegna arte della magia. 2 anni dopo è protagonista del suo primo spettacolo da professionista. Il titolo è tutto un programma, The Magic Man. La produzione è la stessa di Grease, quindi iniziamo a fare le cose in grande. Si tratta di uno show musicale con diversi numeri di magia. Ottiene un grande successo, diventa la produzione musicale più rappresentata a Chicago. 4 spettacoli al giorno per oltre 500 repliche. David acquisisce un'esperienza preziosa nelle performance dal vivo. Riesce a gestire lo show in modo convincente, coltiva il rapporto con il pubblico che ne è affascinato. Davino the Boy Magician diventa definitivamente una star e lui decide di cambiare il suo nome, prende ispirazione dalla letteratura, sceglie il nome del protagonista del romanzo di Charles Dickens del 1850, David Copperfield. David Kotkin. Io ero David Kotkin da Metuchen nel New Jersey. Volevo essere tanto un attore quanto un illusionista. Scelsi il nome del personaggio di Charles Dickens, David Copperfield, stupidamente, perché ora devo confrontarmi con lui, che mi ha preceduto. Charles Dickens faceva magia, è stato recentemente scoperto. Era solito praticarla alla presenza dei suoi ospiti. Magari c'è una qualche sinergia in questa situazione. Siamo alla fine degli anni 70, per David inizia una nuova esperienza. Non c'è più solo il teatro, adesso arriva la televisione. Unitevi a me nel guardare una drammatica illusione, come mai ne avete viste prima in televisione. Viene condotta con uno stile che non ha eguali nel mondo della magia. Qui e ora uno sguardo sulla magia di David Copperfield. E dopo l'esaltante esperienza di Chicago, David Copperfield torna a New York, viene lanciato dalla TV, prima l'ABC, poi la CBS, e se lo contendono praticamente i colossi dell'intrattenimento americano, e vedono in lui un artista capace di incantare il pubblico e, molto meno poeticamente, una macchina da soldi inesauribile. Copperfield, affascinato dalle produzioni della Metro-Goldwyn-Mayer, realizza spettacoli unici e originali, perché da un lato il suo approccio alla magia è particolare, i suoi show, a cui peraltro assistono sempre in, come dire, all'americana e seduti in prima fila mamma e papà, e i suoi show sono una narrazione con un filo conduttore, esibizioni affascinanti, pensate in grande, completati da bellissimi assistenti. Insomma, è una svolta per la magia tradizionale, dove c'è un numero dopo l'altro separati tra loro. I numeri classici di magia lasciano spazio a un vero e proprio illusionismo. Nel 78, per esempio, allo speciale TV The Magic of David Copperfield partecipano anche degli ospiti, in particolare Orson Welles, che è il geniale regista che da sempre è stato attratto dall'illusionismo. Program of magical illusions. Ci sono programmi di magia e illusionismo. Al contrario, io tenterò un altro trucco di magia, con un esperimento che non è circoscritto ai limiti della conoscenza umana, ma che si riferisce al paranormale. Il segreto è racchiuso all'interno di questo blocco di ghiaccio. Block of ice. Così David Copperfield viene messo sotto contratto dalla CBS per una serie di special TV che consacrano la sua fama in tutto il mondo. Durante ogni show vengono presentati numeri mai immaginati prima, realizzati in maniera molto ambiziosa, su larga scala e, per la prima volta, all'aperto, ma sempre davanti a un pubblico in carne ed ossa, senza l'uso di trucchi di regia o di telecamera. Quello che vede il pubblico presente sul posto è quello che vedono i telespettatori a casa, e lo stupore del pubblico diventa parte integrante dello spettacolo. D'altronde l'ambizione di David non ha limiti, perché se vuole diventare l'illusionista più famoso del mondo deve pensare in grande. Nell'81 porta in TV il numero in cui fa scomparire un jet del peso di diverse tonnellate e lo presenta così. Questo è stato semplice, ma nell'ultimo anno ho cercato di far sparire questo aereo. Senza successo, ma nello show di questa notte, di fronte a tutti voi, avrò la mia ultima opportunità. Il mio nome è David Copperfield. Intorno all'aereo 40 persone bendate, è un numero mai tentato prima di allora, che David Copperfield non ripeterà più nel corso della sua carriera. È un'illusione che non può essere contenuta nello spazio di uno studio TV, deve per forza essere realizzata all'aperto. Sentiamo la parte finale del numero, la luce si spegne, poi si riaccende e l'aereo non si vede più. Il falco e il gabbiano. Siamo agli inizi degli anni 80. David Copperfield ha rivoluzionato gli spettacoli di magia in TV. Non più solo trucchi, non più solo giochi di prestigio, ma spettacoli veri e propri in cui si balla, si canta, si recita e si vedono belle donne. Ma David Copperfield diventa un fenomeno mondiale, soprattutto per le sue illusioni, perché il numero della scomparsa dell'aereo ne fa un mito, un personaggio popolare, seguitissimo. Sono gli anni del successo planetario. David Copperfield non si ferma dopo il jet. Nel 1983 si spinge oltre, fa scomparire in America, pensate, la loro Statua della Libertà, il monumento emblema degli Stati Uniti, alto 93 metri, visibile a una distanza di parecchi chilometri. Per realizzare il numero che forse più di ogni altro è entrato nella storia dell'illusionismo, Copperfield fa costruire un enorme palco dal quale un centinaio di persone possono seguire l'evento dal vivo, mentre milioni di telespettatori sono incollati alla TV. Copperfield utilizza addirittura un radar e un elicottero per dimostrare che la statua un momento c'è e il momento dopo non c'è più. Statue of Liberty. La Statua della Libertà, alta 305 piedi e pesante 450.000 libbre. Ora sta per scomparire. Abbiamo predisposto due impalcature sull'isola, di fronte alla statua, e un elicottero, per avere anche una visione aerea dell'illusione. And had a helicopter to give an aerial view of the illusion. L'intera statua è semplicemente sparita, ma non ho per nulla idea di come sia stato possibile. Se fossi stato a casa a vederlo dalla TV sarei stato scettico, ma sono qui, la statua c'era e poi non c'era più. Quando ho visto che non c'era più nulla, non ci potevo credere. Ero assolutamente stupefatto. L'uomo che ha fatto scomparire la Statua della Libertà è famoso in tutto il mondo. Oggi il video di quella sparizione conta ovviamente milioni di visualizzazioni. Ed è solo l'inizio, perché Copperfield si butta in nuove imprese. Nell'84 mette in scena il numero in cui vola sul Grand Canyon. Mentre Bonnie Tyler, vestita di bianco con una pettinatura molto anni 80, come del resto anche Copperfield, mentre Bonnie Tyler canta Old for a Nero, David Copperfield, in uno stato quasi di trance, levita, o meglio, vola. Passano soltanto 2 anni, siamo nell'86, David Copperfield è pronto di nuovo a stupire tutti. Ancora una volta lo spettacolo diventa uno speciale TV per la CBS. È il numero della muraglia cinese. Copperfield la attraversa passando dalla parte esterna a quella interna. E tutto viene ripreso da una telecamera montata su un braccio mobile che non stacca mai. E anche questa volta niente trucchi di regia. Sentiamo la voce di David Copperfield che presenta questo numero. The Great Wall of China. La grande muraglia cinese, lunga 3.000 miglia, l'unica costruzione edificata dall'uomo visibile dalla Luna, costruita perché gli eserciti non potessero passare. Ebbene, io sono determinato a passarci attraverso. Questa telecamera a controllo remoto non mi lascerà neanche per un secondo. Mi riprenderà da un lato del muro, poi entrarci dentro e senza interrompersi passerà al di là del muro. E speriamo mi riprenderà mentre emergo dall'altro lato, camminando così attraverso la grande muraglia cinese. L'impresa di Copperfield diventa un evento mediatico, la sua popolarità non fa che crescere. Negli anni successivi lui esplora un'altra frontiera della magia, l'escapologia, cioè l'abilità che consiste nel liberarsi da costrizioni fisiche come catene, bauli, gabbie, oppure ambientali, cioè stanze senza vie d'uscita. In pratica il territorio di Houdini, che è in anni in cui non esisteva la possibilità di applicare tutti quei trucchi di Copperfield, comunque si incatenava, si faceva buttare sott'acqua incatenato. Ecco, lui segue anche quel filone. Nell'87 evade da Alcatraz, l'anno successivo entra e riemerge dal triangolo delle Bermude e nell'anno successivo ancora si libera da una cassaforte al quarto piano di un hotel che sta per essere demolito. Numeri veramente spettacolari. Il punto più alto è nel 90, è la fuga da un contenitore sistemato su una zattera che sta per precipitare dal bordo delle cascate del Niagara. Copperfield riesce a salvarsi tramite un motoscafo agganciato alla zattera un attimo prima che questa precipiti nelle cascate. È un numero che fa sembrare quasi banale, la liberazione da una camicia di forza appeso a testa in giù sopra una piattaforma piena di lanci infuocate. Siamo nel 93, un anno che per David Copperfield è quello di una ennesima svolta. Il falco e il gabbiano. Lui è considerato il più grande illusionista del millennio, David Copperfield. È l'uomo che nel corso della sua carriera ha fatto sparire la Statua della Libertà, il vagone ristorante dell'Oriente Express, ha volato sul Grand Canyon, è scappato da Alcatraz, ha fatto lievitare una Ferrari. È un uomo che ha fatto della magia la sua vita e della sua vita uno spettacolo nella magia. Ha fatto sognare migliaia di persone. Con i suoi numeri incredibili ha dato nuovo impulso alla magia e agli spettacoli di magia in TV. Da bambino timido e solitario, David si è trasformato nell'illusionista più ricco al mondo. La rivista Forbes ha inserito Copperfield tra le 20 star più pagate nel 2015. Tra proventi dei biglietti degli show, diritti TV, video, Copperfield ha guadagnato 63 milioni di dollari. Soprattutto negli anni David è diventato un personaggio pubblico seguito da milioni di fan. Siamo al 93, che è un anno molto importante per Copperfield, perché durante una serata di gala a Berlino conosce Claudia Schiffer, oh caspita, la modella tedesca in quegli anni tra le top più belle, ricercate e pagate. E lei, lo strega, l'illusionista più famoso del mondo, riesce alla magia più difficile, far innamorare la ragazza che in quegli anni molti considerano l'erede di Brigitte Bardot. I due ufficializzano la loro relazione l'anno successivo e Paris Match scrive che si tratta solo di una montatura pubblicitaria. I due fanno causa e la vincono. Il giornale è costretto a rettificare. Claudia e David appaiono spesso in pubblico, sembrano sempre molto innamorati. Sentiamo un'intervista del 94. Claudia e David sono in Italia, lui ha uno show evento al Forum di Assago, lei una sfilata per Valentino. Entrambi sono ospiti del programma di Canale 5 Buona Domenica. La Schiffer è in collegamento dall'atelier di Valentino Copperfield e addirittura in studio a Cologno Monzese. Ed ora Claudia, vorremmo farti qualche domanda. Vieni abbandonata su un'isola deserta, puoi portare con te soltanto 3 cose o persone. Cosa o chi scegli? Mi porterei il mio bikini contro i paparazzi sott'acqua, il mio latte solare e certamente il mio fidanzato. Se fossi tradita dal tuo amore, quale sarebbe la migliore vendetta per te? Se fosse David a tradirmi, per la prima volta sarei io a far scomparire lui. E se fossi tu a tradire, quale terribile punizione ti potresti aspettare? Questo è ovvio, in questo caso sarebbe lui a far sparire me. Qual è stato il regalo di David che ti è piaciuto di più? Mi ha fatto tanti bei regali, ma il più speciale è stato l'anello di fidanzamento. Siete due infaticabili giramondo. In quale paese e in quale città sarà la vostra casa? Penso che vivremo in tanti paesi. Amiamo molto Monte Carlo, Parigi, New York, Los Angeles. Vivremo in uno di questi paesi. David ti ha confessato qual è stato il suo mito femminile da ragazzo? Sì, la cosa strana è che coincide proprio con il mio mito, Audrey Hepburn. Abbiamo una grande ammirazione per lei, non solo per i suoi film, ma anche per il suo impegno nell'UNICEF. Dici una piccola mania, un'abitudine particolare, un tic di David che nessuno conosce. Gli piace il cioccolato, a me piace anche, però il cioccolato a lui lo fa addormentare. Quando lavora tanto ed è stanco, mangia cioccolato per rilassarsi. Insomma, è molto strano. E beh, l'amore è una cosa meravigliosa, poi se ci sono anche 63 milioni di dollari da parte di lui e qualche milioncino da parte di lei, la cosa non disturba. Durante gli anni del loro idilio, Claudia partecipa più volte agli show di Copperfield come ospite speciale, come nell'illusione Flying, cioè all'inizio dello show David confessa che il suo più grande desiderio è sempre stato quello di volare e poi si mette a fluttuare sul palco mentre lei lo guarda amorevolmente. Sentiamo David che, rivolgendosi a Claudia, introduce il numero durante lo show. Quando ero un bambino, non volevo altri bambini intorno a me. Stavo seduto da solo e sognavo. Vuoi sapere qual era il mio sogno preferito? Era quello di volare. Non in una mongolfiera o in un aeroplano, ma spingere da parte l'aria e il vento e volare. Hai mai volato nei tuoi sogni? Anche oggi, quando mi sento solo o insicuro, torno indietro con la mente a quel sogno, che mi aiuta a lasciarmi alle spalle tutte le mie paure e insicurezze. Tutte le risposte sono lassù. Un sacco di persone hanno dei sogni e non fanno nulla per avverarli. A volte ho paura che la stessa cosa possa accadere anche a me. Ho provato a volare per lungo tempo. Immagino che se avessi smesso di tentare mi sarei smarrito. I guess if I don't stop trying, I haven't lost. Beh, com'è americano tutto questo? Comunque Claudia Schiffer compare anche in David Copperfield 15 Years of Magic, David Copperfield 15 anni di magia, che è il documentario realizzato nel 94 che ripercorre la carriera e i numeri più famosi dell'illusionista, e lei ha l'inedito ruolo dell'intervistatrice, della voce narrante dello show assieme a lui. Non so quando è cominciato. Ho passato tutta la mia vita a fare magie. Amo la magia. L'amo sia nel privato sia nella sua versione spettacolarizzata. Come l'anno in cui ho deciso di far scomparire un treno. Sono salito sull'Oriente Express. Sapevo che stavo facendo qualcosa di gigantesco. Mi ci sono voluti anni per trovare la carrozza del treno e anni per costruire l'illusione. Ma secondo la stampa scandalistica, la relazione tra David e Claudia ha degli alti e bassi, e il gossip li dà più volte per separati. Nell'agosto del 99 il Daily News diffonde la notizia: l'illusionista e la top model non stanno più assieme. Lui si fa vedere accanto a una star della TV americana, Angelica Castro, somigliante alla Schiffer. Lei si fa fotografare con un giovane stilista. Intanto sono molte le soddisfazioni che lui si è tolto durante la carriera, perché nel 96 realizza il sogno di portare in scena uno spettacolo a Broadway firmato da un certo Francis Ford Coppola, Dreams and Nightmares, sogni e incubi, e lo spettacolo polverizza ogni record di incassi a New York. Contemporaneamente lavora al grande progetto di un museo della magia, fonda a Los Angeles l'International Museum and Library of the Conjuring Arts. Si tratta di una collezione tra le più grandi di sempre, collezione di libri, oggetti, memorabilia del mondo della magia, dell'illusionismo. Il museo è pensato per i collezionisti e i maghi ed è un luogo circondato da mistero e suggestione, perché vi si accede attraverso una porta segreta all'interno del quartier generale di Las Vegas di Copperfield. L'attore Hugh Jackman, che nel 2006 al cinema ha interpretato la parte dell'illusionista Robert Anger nel film The Prestige di Christopher Nolan, descrive il museo che ha visitato per esigenze di copione come sex shop. Sentiamo come Copperfield parlava del suo museo nel 2006 durante un'intervista a Larry King sulla CNN. Io ho un incredibile museo della magia, pieno di reperti appartenuti ai grandi maghi del passato. Poster, programmi, libri, centinaia di migliaia di libri di magia. Farò un'esposizione perché i marchingegni che sono stati creati dai maghi lungo la loro storia sono davvero dei simboli. I materiali che hanno utilizzato, quello che facevano. Noi maghi abbiamo di fatto creato il cinema, che è nato con gli spettacoli di magia, Georges Méliès e Robert Houdin. Il cinema ha cominciato a svilupparsi proprio sui palcoscenici degli spettacoli di magia. Il progresso di tutto questo, come la magia ha contribuito allo sviluppo della scienza e dell'arte, è molto importante per me. E in questo museo si trovano oltre 80.000 tra oggetti, poster, attrezzi del mestiere, libri, trucchi, svariati oggetti per i numeri di Orson Welles, che era un altro grande appassionato di magia, e poi gli automi di Houdini, il più grande illusionista francese, la registrazione conosciuta, l'unica registrazione della voce di Houdini. E nel corso degli anni ogni spettacolo di Copperfield si è sempre trasformato in un vero e proprio avvenimento. Praticamente lo staff che lo segue, che è formato da oltre 40 persone, è quello di una rockstar, di un concerto rock. Per i suoi show servono tonnellate e tonnellate di materiali, di attrezzature, perché lui è l'uomo che ha polverizzato tutti i record. Il bambino che si esibiva alle feste degli amici per qualche dollaro è entrato nella lista dei 10 personaggi dello spettacolo più ricchi e famosi, ha stabilito diversi primati per il Guinness World Record, da quello per il maggior numero di biglietti venduti a quello per l'illusione più grande mai messa in scena. I suoi numeri, per i quali ci vogliono anni di preparazione, gli hanno fruttato diversi premi Emmy e fanno sempre il pieno di ascolti. Altrettanto affollati e attesi dal pubblico sono i suoi spettacoli dal vivo. In Italia, per esempio, Copperfield è stato nel 94 e nel 2006. I biglietti sono sempre andati esauriti. Tra quelle eseguite in tutta la sua carriera sono tre le illusioni che Copperfield considera le più riuscite in assoluto: Flying, nella versione con il volo in un contenitore di plessigas, Death Soul, la sega della morte, che è il numero della lotteria con l'auto che appare in mezzo al pubblico. In Flying, trasmessa per la prima volta in TV dalla CBS nel 92, lui si alza in volo per diversi minuti sul palcoscenico e il pubblico ha modo di osservarlo sia di fronte che di lato. Un altro numero rivisitato da Copperfield, e che è tra i suoi preferiti, è quello della cosiddetta sega della morte, portato in scena per oltre 10 anni, un numero molto famoso negli anni 90. Si tratta di una variante della donna tagliata in due. È un numero in cui lui si sdraia pancia in giù, viene incatenato su due tavoli, viene chiuso in una cassa, e mentre la sega rotante scende dall'alto, lui ha più o meno un minuto di tempo e una forcina per capelli per liberarsi prima di essere raggiunto dalla lama. L'intera esecuzione è ripresa con un unico piano sequenza, come in tutti gli show di Copperfield, per dimostrare che non ci sono trucchi di montaggio tipici delle produzioni televisive o cinematografiche. Lui finisce davvero, per così dire, segato in due. La parte fondamentale del numero è la ricomposizione del suo corpo, che nel frattempo è stato chiuso in due bauli diversi. Naturalmente il pubblico alla fine è conquistato, come possiamo sentire da questo audio originale durante una delle tante esecuzioni. Ah, una curiosità: tra le musiche dello show c'è anche la colonna sonora del film Alien. Dunque, per parlare di David Copperfield abbiamo con noi Massimo Polidoro, che è uno scrittore, un giornalista, peraltro cofondatore del CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Massimo Polidoro è considerato uno dei principali esperti internazionali nel campo dei misteri, della psicologia dell'insolito e dell'insoluto, però è anche un cultore dell'illusionismo. E noi stiamo parlando di David Copperfield. Perché è così più famoso degli altri? David Copperfield è stato un fenomeno straordinario, soprattutto tra gli anni 80 e 90, sì. Perché ha in qualche modo rinnovato completamente quella che era l'arte magica fino ad allora. Lui era proprio la rockstar, cioè si usava molto la musica pop e anche rock ogni tanto nei suoi numeri, e riusciva a coreografarli come fossero dei video di MTV, no? Quindi proprio quando esplodeva il fenomeno dei video musicali. Esatto. Dal punto di vista tecnico, ha portato delle novità? Ma forse la cosa più grande che ha portato ovviamente sono queste illusioni spettacolari, sì, che riuscivano a sfruttare nel modo migliore il mezzo televisivo, nel senso che prima di lui i maghi si esibivano in teatro. E Copperfield per primo fa qualcosa che va solo in televisione: vola sul Grand Canyon, piuttosto che passa attraverso la muraglia cinese, fa sparire la Statua della Libertà. Ecco, queste sono cose che solamente attraverso la televisione si, certo, potevano mostrare. Adesso non ce li devi dire, ma li hai capiti molti di questi trucchi? Beh, ti sei interessato, ti sei appassionato a questo mondo anche per quello, diciamo, nel tuo DNA c'è un po' quello di smascherare. Assolutamente sì, beh, la curiosità comunque di capire e da ragazzino anche di farti, no? Di, certo. Di ripetere. Ah, tu sei un ex mago? Beh, da tanti, diciamo, tanti indagatori di mistero all'inizio erano proprio maghi. E ho avuto anche la fortuna di studiare con uno dei più famosi illusionisti americani, che è diventato il più famoso indagatore di misteri, che è James Randi. Certo. Senti Massimo, l'ultima domanda: secondo te qual è l'approccio giusto nei confronti, diciamo, di maghi illusionisti? Cioè, è giusto andare al di là di persone come te che lo fanno anche, diciamo, per lavoro, missione, e anche in altri casi per mettere la gente sulla difensiva, però l'approccio è quello di andare a cercare di capire ossessivamente qual è il trucco, o lasciarsi trasportare dall'illusione? No, nel caso dell'illusionismo è il divertimento puro quello che deve prevalere, nel senso che l'illusionista, Sylvan, Copperfield e tutti quanti appunto sono degli artisti, nessuno di loro pretende di prenderci in giro o di, certo, farci credere cose che non sono, quindi non c'è nessun motivo di voler smascherare, no, un artista. Sì, sì. Non sono quelli con le stigmate che scappavano di fronte a voi all'edizione del bivio. Sono quelli che magari si servono anche loro di trucchi, però ci vogliono far credere che hanno chissà quali poteri paranormali. Quelli si scappano e quelli allora ricorriamo di essi. Lo sappiamo. Grazie Massimo Polidoro, buon lavoro al CICAP e a presto. Grazie, grazie a voi, grazie a voi, a presto. Negli ultimi anni Copperfield, che dal 2010 è papà di una bambina, come me, e la bambina nel suo caso si chiama Sky, strano per uno che lavora nella CBS. Comunque, lui sta inseguendo, direi, l'illusione più difficile di sempre, quella impossibile, quella di non invecchiare mai. Ha acquistato 11 isole nelle Bahamas, cambiando il loro nome in Baia di Copperfield, perché è convinto che lì si trovi una vera e propria fontana della giovinezza. Però temo che quello sia il trucco che nessun essere umano è ancora in grado di applicare veramente fino in fondo. Al limite ci si possono tingere i capelli, ma l'eterna giovinezza non è ancora alla nostra portata. Comunque, intanto, molti di voi si sono certamente chiesti quali sono i segreti dei numeri di Copperfield. Noi non ve li sveliamo, però per chi volesse conoscere la realtà dietro all'illusione, in rete ci sono molte ipotesi e molti siti che provano a ricostruire come David sia riuscito a volare oppure a fare scomparire la statua della libertà. In realtà, forse, secondo me, come dicevamo prima con Massimo Polidoro, è meglio tenersi le proprie fiabesche illusioni, almeno in questo campo. Persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, ma soprattutto volare in alto, sono molte. David Copperfield lo ha fatto anche fisicamente. Ci è riuscito, ha avuto cadute e risalite, però in qualsiasi modo ci ha fatto sognare e ci ha fatto immaginare un universo che non esiste, fatto di magie. Se volete mandarci dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare i riflettori, cioè il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure venite a trovarci sui nostri social, insomma, cercatemi. A lunedì.